qualche gorgiato dei mandolini. Passerò tutta l'estate qui, compresi lunedì. Quelli li odio di più, non lo so, ma è così. Con i muri, fatti però quelli.